che in alcuni paesi si fa coincidere con l'Epifania. Le campane e la banda di un paesino sulla sponda destra del torre salutano i reduci dalla Francia, dalla Svizzera, dal Belgio, dal Lussemburgo. Mamme, mamotte! È una madre che abbraccia il figlio, arrivato nel momento in cui il corteo degli emigranti sta entrando nella parrocchiale di Vergnacco per assistere alla funzione di ringraziamento. Sì, sono tutti quest'anno. Nessuno è rimasto in terra straniera sotto una croce. Tutti in salute, anche i lontani, come i figli di Pieri d'Aironx. L'uno in una farma australiana, l'altro in una pampa argentina. Pieri d'Aironx, che proprio il 26 dicembre compiva i 95 anni e partecipe alla festa come un ventenne. A benedizione finita le confidenze, i canti, i brindisi col frizzante vino nuovo. Buon pranzo, Basie, baron Pieri! A tutti lontani, che Dio io guardi! Risponde quel patriarca alzando il bicchiere e non gli trema la mano. Vieni Parigi, ma poi via il Vergnat! Io non arresto il Friuli per tutta la Svizzera! Notte di San Silvestro. Gli auguri per il nuovo anno vengono ancora cantati su Incarnia in cambio dei sops, mele secche, noci, pere, offerte alla brigata canora anche dalle più modeste famiglie. Talvolta i sops consistono in un piatto di fagioli, su cui posa il pan di ciase, intriso di segala e di gran turco. Buon principi dell'anno, vuoi un anno in salute? L'augurio passa di soglia in soglia, vola da finestra a finestra. Fortunato chi uscito di casa il primo gennaio si sarà imbattuto in un uomo. Avrà la fortuna dalla sua. In qualche villaggio, dove sopravvivono usanze valide tuttora fra i ladini del canton Grigioni, la gente si abbraccia auguralmente. A Forni di Sopra l'augurio si fa addirittura cantilenato. Buon die bonan, bini a mila bon buona istan, e a vos un altri an. In talune località il nuovo anno viene salutato con il lancio degli scidulis, dischetti arroventati di fancio, che striano di fuoco la notte di San Silvestro. E siamo all'Epifania. Altri canti, altri suoni scortano i remagi, avendo ad attore un ragazzo che fa girare una stella di carta fissata a una pertica. Pasca tafania, cul sivido, no puarez e grand meschins, che lingator cence quatrins, o al manco parpare bon, nus donais un gras diapon. La palalalala, cul sivido, us dinga duc la buina not. Farin la danza a cui che canta donai la manza. La vigilia, benedizione dell'acqua lustrale, che ogni famiglia porta in casa e nella stalla a scongiurare il malocchio, poiché la virtut de age sante e passe siet murs, come assicura un proverbio. Ma lo spettacolo veramente suggestivo dell'epifania friulana, caratteristica altresì la messa dello spadone a Cividale e la messa del tallero a Gemona, è dato dai fuochi, pignarui, che dopo il tramonto costellano monti, colline e pianura con una ricorrente sequenza di luci da cui si traggono i pronostici dell'annata agricola. Se il pumpal va a Sorelli e va, chiappe sul sacco e va a marchià. Se il pumpal va a Sorelli a monte, chiappe sul sacco e va pal monte. Richiamo, come abbiamo accennato, ai remagi in cerca della capanna di Betlemme o al culto del solare Beleno, il celtico dio del fuoco, o ai bivacchi degli antichi padri Ari? Certo, la sera dell'Epifania, come la notte di Natale, una grande pace entra nei cuori. Crepita la fiamma del Pignarul. Il pum al vaso e di Yevà! Guidi a nave, furla! Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, Natale ed Epifania in Friuli, 17ª trasmissione dedicata agli emigrati.